Nicanore, avendo saputo che gli uomini di Giuda si trovavano nella regione della Samaria, decise di assalirli a colpo sicuro nel giorno del riposo. Poiché i giudei che l'avevano seguito forzatamente gli dicevano: «Assolutamente non devi ucciderli in modo così crudele e barbaro, rendi onore al giorno che è stato già onorato, rivestendolo di santità da colui che tutto vede», quell'uomo tre volte scellerato chiese se c'era in cielo un Signore che aveva comandato di celebrare il giorno del sabato. Essi risposero: «Vi è il Signore vivente, egli è il sovrano del cielo, che ha comandato di celebrare il settimo giorno». L'altro ribatté: «E io sono sovrano sulla terra, che comando di prendere le armi e portare a termine le disposizioni del re». Tuttavia non riuscì a mandare a effetto il suo crudele intento. Nicanore, dunque, alzata la testa con tutta la superbia, aveva decretato di erigere un pubblico trofeo per vittoria sugli uomini di Giuda. Il Maccabeo invece era costantemente convinto e pienamente fiducioso di trovare protezione da parte del Signore. Esortava i suoi uomini a non temere l'attacco dei pagani, ma a tener fissi in mente gli aiuti che in passato erano venuti loro dal cielo e ad aspettare ora la vittoria che sarebbe stata loro concessa dall'Onnipotente. Confortandoli così con le parole della legge e dei profeti e ricordando loro le lotte che avevano già condotte a termine, li rese più coraggiose. Avendo così stimolato i loro sentimenti, espose e denunziò la malafede dei pagani e la violazione dei giuramenti. Dopo aver armato ciascuno di loro non tanto con la sicurezza degli scudi e delle lance, quanto con il conforto delle egregie parole, li riempì di gioia, narrando loro un sogno degno di fede, anzi una vera visione. La sua visione era questa: Onia, che era stato sommo sacerdote, uomo eccellente, modesto nel portamento, mite nel contegno, dignitoso nel proferir parole, occupato dalla fanciullezza in quanto riguardava la virtù, con le mani protese pregava per tutta la nazione giudaica. Gli era anche apparso un personaggio che si distingueva per la canizie e la dignità ed era rivestito di una maestà meravigliosa e piena di magnificenza. Onia disse: «Questo è l'amico dei suoi fratelli, colui che innalza molte preghiere per il popolo e per la città santa, Geremia, il profeta di Dio». E Geremia, stendendo la destra, consegnò a Giuda una spada d'oro, pronunciando queste parole nel porgerla: «Prendi la spada sacra come dono da parte di Dio, con questa batterai i nemici». Esortate dalle bellissime parole di Giuda, capaci di spingere all'eroismo e di rendere virile anche l'animo dei giovani, decisero di non restare in campo, ma di intervenire coraggiosamente e decidere la sorte attaccando battaglia con tutto il coraggio, perché la città e le cose sante e il tempio erano in pericolo. Minore era il loro timore per le donne e i figli, come pure per i fratelli e i parenti, perché la prima e principale preoccupazione era per il tempio consacrato. Anche per quelli rimasti in città non era piccola l'angoscia, essendo tutti turbati per l'ansia del combattimento in campo aperto. Mentre tutti erano in attesa della prova imminente e i nemici già avevano cominciato ad attaccare e l'esercito era in ordine di battaglia e gli elefanti erano piazzati in posizione opportuna e la cavalleria schierata ai lati, il Maccabeo, dopo aver osservato le moltitudini presenti e la svariata attrezzatura delle armi e la ferocia delle bestie, alzò le mani al cielo e invocò il Signore che compie prodigi, convinto che non è possibile vincere con le armi, ma che egli concede la vittoria a coloro che ne sono degni secondo il suo giudizio. Invocando il Signore si esprimeva in questo modo: «Tu, Signore, inviasti il tuo angelo al tempo di Ezechia, re della Giudea, ed egli fece perire nel campo di Sennacherib 185.000 uomini. Anche ora, sovrano del cielo, manda un angelo buono davanti a noi per incutere paura e tremore. siano atterriti dalla potenza del tuo braccio coloro che bestemmiando sono venuti qui contro il tuo santo tempio. Con queste parole egli terminò. Gli uomini di Nicanore avanzavano al suono delle trombe e degli inni di guerra. Invece gli uomini di Giuda, con invocazioni e preghiere, si gettarono nella mischia contro i nemici. In tal modo, combattendo con le mani e pregando Dio con il cuore, travolsero non meno di 35.000 uomini, rallegrandosi grandemente per la manifesta presenza di Dio. Terminata la battaglia, mentre facevano ritorno pieni di gioia, riconobbero Nicanore caduto con tutte le sue armi. Levarono alte grida dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente nella lingua paterna. Quindi, colui che era stato sempre il primo a combattere per i suoi concittadini, con anima e corpo, colui che aveva conservato l'affetto della prima età verso i suoi connazionali, comandò che tagliassero la testa di Nicanore e la sua mano con il braccio e li portassero a Gerusalemme. Quando vi giunse, chiamò a raccolta tutti i connazionali e i sacerdoti davanti all'altare. Sostando in mezzo a loro, mandò a chiamare quelli dell'Acra, mostrò loro la testa dell'empio Nicanore e la mano che quel bestemmiatore aveva steso contro la sacra dimora dell'Onnipotente, pronunciando parole orgogliose. Tagliata poi la lingua del sacrilogo Nicanore, la fece gettare a pezzi agli uccelli e ordinò di appendere davanti al tempio la mercede della sua follia. Tutti allora, rivolti verso il cielo, benedissero il Signore glorioso dicendo: «Benedetto colui che ha conservato la sua dimora inviolata». Fece poi appendere la testa di Nicanore all'acra alla vista di tutti, perché fosse un segno manifesto dell'aiuto di Dio. Quindi decretarono unanimemente, con voto pubblico, di non lasciar passare inosservato quel giorno, ma di commemorarlo il 13 del 12° mese, che in lingua siriaca si chiama Adar, il giorno precedente la festa di Mordocheo. Così andarono le cose riguardo a Nicanore, e poiché da quel tempo la città è rimasta in mano agli ebrei, anch'io chiudo qui la mia narrazione. Se la disposizione dei fatti è riuscita scritta bene e ben composta, era quello che volevo. Se invece è riuscita di poco valore e mediocre, questo solo ho potuto fare. Come bere solo vino, e anche il bere solo acqua è dannoso, e viceversa, come il vino mescolato con acqua è amabile e procura un delizioso piacere, così l'arte di ben disporre l'argomento delizia gli orecchi di coloro a cui capita di leggere la composizione. E qui sia la fine.